Siete all'ascolto di Atti e Misfatti e ne abbiamo parlato già la settimana scorsa, ma abbiamo qui una compagna con noi al telefono che ci parla di questa iniziativa all'Aquila che è proprio questo weekend, 17-18 maggio. Ciao a tutti e a tutte. Ciao, raccontaci un po', allora, seconda edizione Donne Terremutate. Sì, quest'anno abbiamo la prima novità, che consiste nel fatto che dopo quasi 3 anni di lavoro e dopo 2 anni dalla prima edizione, il Comitato Donne Terremutate si è trasformato in associazione Donne Terremutate. Ci siamo date questa veste anche per poter affrontare, speriamo in modo più articolato, il futuro che ci aspetta quando, come riteniamo, andremo a gestire la futura Casa delle Donne, che è il progetto che ci ha fatto nascere, che ha fatto muovere insomma tutte le nostre iniziative. Quindi 18 e 19 maggio di nuovo all'Aquila, questa volta non tanto e non solo per vedere la città così com'è, che era stato un po' l'invito che avevamo fatto 2 anni fa. Quest'anno l'invito è comunque a tornare o anche a venire per quelle che saranno qui per la prima volta e cercare ancora una volta di farci attraversare dalle esperienze comuni, seppur diverse, di abitare su tanti territori assolutamente violati. In questa città continuiamo a vivere le ferite di un terremoto, in tanti altri luoghi si vivono ovviamente le contraddizioni e le ferite che provengono insomma da altre cause, da altri fenomeni, ma quello che ci lega ancora una volta in quanto donne è la voglia di cercare di mettere in comunicazione queste esperienze per dirci ancora una volta che tipo di città vorremmo tutte quante abitare. Quindi le 2 giornate saranno di nuovo articolate nei lavori tematici, in quelle che continuiamo a chiamare stanze, perché oggi sono luoghi simbolici della futura casa che sarà. Affronteremo temi che vanno dalla violenza di genere all'espropriazione dei territori, alla possibilità di organizzare case delle donne un po' in tutta Italia, e poi c'è una stanza sicuramente la più prescelta in questo momento, perché molte donne si prenotano per partecipare a questa stanza che abbiamo chiamato Giardino e che sarà il luogo dove tentare di muovere quelli che sono i nostri desideri, no, rispetto a una città, partendo da un concetto che a noi è molto caro, quello della bellezza, proprio perché tanta bellezza ci è stata sottratta e altrettanta bellezza vorremmo mettere non solo in queste giornate ma anche nella futura casa che continua ad ispirare il nostro percorso. E quello che mi va di dire è che in questi 2 anni quello che è accaduto di straordinario sta non solo nelle relazioni che si sono arricchite, che sono cresciute e si sono intensificate con donne di tante parti d'Italia, ma soprattutto che il progetto che chiamiamo Casa delle Donne è diventato un progetto di tutte le donne d'Italia, di tutte quelle che vorranno e che in qualche modo stanno già lavorando per farne parte. Ecco, questo per noi è sicuramente uno dei risultati più preziosi. Benissimo, noi abbiamo già raccontato settimana scorsa appunto tutte le varie stanze, si parla di violenza, si parla appunto di tante cose che riguardano il territorio, i territori violati in molti sensi, e quindi e questo filo conduttore l'ho trovato molto bello, questo filo conduttore dell'idea della bellezza, che la bellezza ci appartiene, che la bellezza insomma è una cosa che dobbiamo cercare, trovare e appunto mettendo in campo i nostri desideri. Quindi l'appuntamento è il 17, il 18. Sabato 18 sabato e domenica 18, 19 maggio. Domenica 19 maggio su all'Aquila c'è un punto di accoglienza quando si arriva. Allora, come sempre il punto d'accoglienza sarà organizzato in Piazza Duomo, dove avremo una segreteria, e la Piazza Duomo che abbiamo ribattezzato il salotto perché sarà la stanza in cui la sera staremo tutte insieme con una bella cena collettiva, musiche, parola e appunto bellezza. Ecco. Quindi punto d'accoglienza Piazza Duomo. Ok, allora lo diciamo a tutte quante, chi volesse raggiungere le Donne Terremutate e condividere desideri, esperienze, idee e quant'altro, sabato 18 e domenica 19 maggio all'Aquila, il punto di ritrovo diciamo centrale a Piazza Duomo. Noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. E buon weekend. E ti aspettiamo anche a te e a tutte. Buon lavoro, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.